tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. 30 anni domani, 20 febbraio 1979, moriva a Trieste Nereo Rocco, una delle leggende del calcio italiano del dopoguerra. Dal mio punto di vista, la leggenda in assoluto. L'appuntamento di oggi è dedicato alla riscoperta del Parón per chi lo ha conosciuto, lo ricorda o ne ha comunque sentito parlare, ma io lo vorrei che fosse una scoperta per i giovani che non certo per colpa loro, anzi beati, non conoscono, non hanno magari mai nemmeno sentito parlare di questo straordinario personaggio. In estrema sintesi, Nereo Rocco era nato a Trieste il 20 maggio del 1912, aveva debuttato nella Triestina nel 30, dunque a 18 anni, come centrocampista di sinistra, anzi mezzala si diceva a quei tempi e si è continuato a dire per un bel po'. Aveva messo insieme da calciatore 284 partite in Serie A con 73 gol, una presenza in nazionale, un'Italia-Grecia 4-0 a San Siro nel 34, prima di iniziare la carriera da allenatore che lo ha reso celebre nel mondo, la Triestina nel 47-48 al debutto, e subito al debutto uno storico secondo posto a pari merito con Milan e Juventus, dietro soltanto al grande Torino. Una parentesi a Treviso, un breve e non fortunato ritorno a Trieste e poi l'epopea del Padova, prima con la promozione in Serie A e poi per 6 stagioni consecutive stabilmente ai vertici del calcio italiano. 61-62 l'arrivo al Milan, scudetto immediato, l'anno successivo la prima Coppa dei Campioni della storia del calcio italiano, un'altra parentesi di 4 anni al Torino con un terzo posto nel 65 che fu per il Torino il miglior risultato dopo la tragedia di Superga all'epoca, ritorno al Milan, di nuovo scudetto al primo colpo, 68, con Coppa UEFA in più, e l'anno successivo, 69, Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentali. 3 secondi posti consecutivi, un'ultima esperienza alla Fiorentina nel 74-75 e poi la parabola discendente con incarichi minori al Milan da direttore tecnico o da consigliere tecnico. Questa è la scheda del personaggio, molto sintetica, che pur con tutto il rispetto per tanti traguardi non spiega, a parer mio, perché a 30 anni dalla morte, che è un lasso di tempo abissale in un'epoca che consuma i suoi miti alla velocità della luce, perché a 30 anni dalla morte, dicevo, il mito del Parón sia ancora così lontano dal tramonto. Ed è quello che ci apprestiamo oggi a scoprire insieme in questa puntata che è un omaggio, ripeto, a una delle leggende del dopoguerra del calcio italiano. Io direi di cominciare ascoltando un primo breve frammento vocale che, al pari poi degli altri che seguiranno, Flavio Suardi ha scovato servendosi di tecnologie e diavolerie assortite. Sentiamo questo autoritratto di Rocco sulle sue forme, sulla sua panza, diciamo pure. Ho sentito che la chiamano Michelin, perché? No, mi chiamo Michelin perché il Milan mi ha fornito questa tuta un po' ingombrante. Ah, non è per via della pancia? Io non tocco un tasto debole, per favore. Beh, era un tasto delicato, soprattutto direi abbastanza sempre, ma in particolare negli ultimi tempi, diciamo nella fase discendente della carriera, quando il profilo del Parò non era esattamente quello di una silfide. Rocco non si è mai vantato di nulla, ma insomma aveva un rapporto con i giocatori che era quasi filiale, direi, nel senso che lui era il padre, a volte burbero, a volte tenero, con quel tipo di educazione che ovviamente andava in voga negli anni, era in voga negli anni 50, 60, 70, che è, come dire, vagamente diversa da quella odierna. Sentite quest'altro brevissimo frammento. Una cosa mia, personale, e non la vado a spampanare. Io dico che conosco i miei giocatori 2 ore prima di suo padre. Primo collegamento di giornata con Trieste, dove troviamo Tito Rocco. Buongiorno Tito. Buongiorno Gigi. Allora, Tito è il secondogenito del Parón, oggi è dirigente accompagnatore della Triestina, e io non faccio fatica a scommettere, Tito, che anche 30 anni dopo la voce di tuo papà ti avrà un po' rimescolato. Certo Gigi, mi fa sempre un certo effetto. Sono passati 30 anni, sempre un ricordo, un esempio ben definito. Se lo fa, mi posso immaginare. Senti, invece, domani faremo festa tutti insieme a Trieste. No, faremo festa perché? Perché io dico che quando un ricordo dura 30 anni e dopo 30 anni è così vivo, non si commemora, si festeggia, secondo me. Questo è il verbo corretto, è giusto? Hai ragione, sì. Trieste lo ricorda con una manifestazione. Commemorazione, ricordo, nella sala del Consiglio Comunale, è presente il nostro sindaco, mi pare tutto il Consiglio comunale presente, ci saranno anche esponenti della Triestina, i maggiori esponenti della Triestina, amici comuni, veramente è una cosa toccante, perché veramente, come dici tu, dopo 30 anni c'è ancora questo ricordo, questo esempio di persona che ha lasciato veramente un segno. Senti, a parte il fatto che poi domani c'è questa cerimonia ufficiale di commemorazione, poi mi risulta che ci sono anche delle iniziative in proiezione, no? Per ricordare meglio tuo papà. Sì, nell'arco di quest'anno, il 2009, ci sarà in previsione una mostra con una manifestazione di ricorrere i tempi del nostro Nereo attraverso la storia d'Italia, così, non so, una cosa molto in grande che è difficile da definire. Comunque ci sarà veramente un ricordo indelebile. E avranno magari una memoria migliore della mia, perché già un po' di ascoltatori mi segnalano che il Milan non ha mai vinto la Coppa UEFA, è vero? Quella era la Coppa delle Coppe, quella che... Coppa delle Coppe, quella che poi, tuo papà... Poi nel 78 aveva vinto la Coppa Italia anche. Ah, è vero. È vero, nel 78, proprio l'anno prima di morire. Quindi sì, la partita di Mazzola nell'Inter, mi ricordo. Ti prenderò come consulente, Tito, perlomeno per quello che riguarda Milan, Triestina e Padova. Senti, dimmi ancora una cosa. Tu oggi sei dirigente accompagnatore della Triestina. Sì. Io vorrei sapere che effetto ti fa, ma senza retorica, che effetto ti fa sederti sulla panchina della Triestina nelle partite in casa in uno stadio intitolato a tuo padre, che tra l'altro proprio all'ingresso ha un busto dedicato a tuo padre, che non è nemmeno bello, tra l'altro, detto tra noi, perché gli somiglia poco. Sono pienamente d'accordo. Col busto, sul busto. Sì, è una cosa che... alla quale tengo molto, guarda, veramente per un certo effetto, dico anche per gli avversari, quando ci presentiamo, Stadio Nero Rocco, il figlio, sono sempre gente che ancora, tutta la gente del calcio che ancora si congratula, è una cosa veramente toccante, guarda, e poi questo è il mondo che mi piace, dei modi sportivi, anche se questo calcio non è più quello che ricordiamo noi, no? Però comunque è qualcosa che voi avete spugnato col latte materno, direi, no? Anche perché anche la signora Maria poi era a sua volta complice del marito. Tito, io ti faccio ancora ascoltare un frammento che dimostra come Nereo Rocco non avesse mai dimenticato nemmeno dei momenti dei sommi trionfi, quali erano le sue origini e quali erano le sue prime squadre del cuore. Sentilo, questo è un'intervista alla Domenica Sportiva del 1969, subito dopo la vittoria nell'Intercontinentale. Il cavalier Nereo Rocco, che stava guardandosi proprio la sua coppa. Sì. Era l'ultima cosa che mi mancava nella mia carriera di giocatore e allenatore. Senta, lei ha raggiunto quindi il tetto, cavalier Rocco. Lei ora è così, campione del mondo. Quali altri traguardi si prefigge? Coppe interplanetarie? No, di cancellare tutto e cominciare nuovamente. E cominciare da capo? Scherzavo, io... come sogno, perché so che non sarà possibile, vorrei portare o Triestina a Padova in Serie A, poi chiuda definitivamente. È veramente molto bello, cioè ha pagato i suoi massimi desideri. Adesso il suo vero autentico sogno è quello di... Sogno o Triestina a Padova in Serie A e poi avrai finito. Non fu possibile, però Tito, mi pare che già 40 anni fa avesse le idee chiare tuo padre. Le idee chiare, speriamo che questo sogno della Triestina sia... possa avverare quest'anno, chissà, questo così augurio, questa cosa, siamo ancora in corsa. Certo, lo so che siete in corsa, la suggestione dell'annata e l'anniversario potrebbe completare il quadro. Faccio notare, en passant, anche la voce del conduttore della Domenica Sportiva a proposito di mostri sacri di allora era niente meno che quella di Enzo Tortora. Tito, ci vediamo stasera, ciao! Ciao. Ciao, grazie. Ci vediamo stasera a Trieste con Tito Rocco, con suo fratello Bruno, con tutta la banda, sempre meno giovane, di combattenti e di reduci nel nome del Paron. Prima del secondo collegamento di giornata, mi piacerebbe leggervi una parte di uno dei più belli articoli che Gianni Brera abbia mai scritto nella sua vita, e fu il cosiddetto coccodrillo, il necrologio in morte di Nereo Rocco, che apparve all'indomani e quindi che apparve il 21 febbraio del 1979. È morto Nereo Rocco e io non debbo nemmeno pensare di poter piangere. È un diritto, ahimè, che non mi appartiene da tempo. I miei sentimenti non contano. Tanto più sarò suo amico, quanto meglio riuscirò a ricordarmi di lui senza frapporre l'amicizia tra me e il mio lavoro insolente. Prepara il coccodrillo, mi è stato ordinato con presago cinismo. Un'ostia, avevo ruggito a sorpresa con la sua stessa voce. Io so che è già morto, ma voi non lo dovete sapere. Voi dovete aspettare, maledetti, che lo sappiano tutti. Allora mi metterò al carrello e garantito che saprò battere i polpastrelli senza il minimo groppo in gola. Così cerco di fare adesso che tutti lo sanno. E se volete capire meglio, dirò che avevo già pianto e bestemmiato come voleva la nostra amicizia tutta particolare. Ho qui sott'occhio un cartoncino per auguri, con su stampati i nomi di Nereo e Maria Rocco, Trieste, via Massimiliano D'Angeli 28, telefono 79 16 36, la data, Capodanno 78-79. La calligrafia piccola e slegata di uno che è stato a scuola, ma ha la mano troppo tozza per tenere la penna con un minimo di disinvoltura. Giovanin carissimo, grazie per i tuoi fraterni graditi auguri, contraccambio con sincero affetto e brindo le tue fortune, purtroppo con l'acqua fiuggi. Ti prego, ricordami alla tua famiglia. Ancora grazie, Nereo. Non so di grafologia e ancor meno di acqua fiuggi, ma questo suo biglietto era un testamento e l'ho recepito con rabbia dolorosa. Improvvisamente mi si è stretto qualcosa nelle viscere e mi è venuto un disagio che era quasi paura. Allora ho capito che Nereo era morto, che era al suo stesso male, potrei morire anch'io, e ho la sfacciata onestà di ammettere che non sapevo se fosse più il dolore o la paura a farmi piangere. Seguono tre altre memorabili cartelle. E questo è il finale. Caro vecchio Nereo, se avessi pianto non avrei finito a tempo questo lavoro, che l'amicizia, soltanto l'amicizia, non mi rende né gravoso né ingrato. Il magone mi è venuto quando ho letto quella tua ultima lettera. Non è da noi piangere. La tua vita è stata buona. Al tuo ricordo, amico, brinderò come tante volte abbiamo fatto insieme. Addio Nereo, ti sia lieve la terra. 30 e passa anni fa, un personaggio come Rocco e un personaggio come Brera che gli rende omaggio a questa maniera. Tra poco, dopo il primo intervallo, continueremo questo viaggio alla riscoperta del Paron, che oggi ha trovato ampi echi sui quotidiani nazionali, per esempio su Repubblica, con una stupenda pagina firmata da Gianni Mura, per esempio sul Corriere della Sera con un articolo di Tommaso Pelizzari, e ripeto che poi altri echi troverà in particolare domani con questa cerimonia di commemorazione, così si chiama, io la chiamo di festeggiamento, che ci sarà a Trieste. La seconda tappa del viaggio, vi dicevo, sarà a Padova, dove saremo collegati col primo storico capitano del Padova di Nereo Rocco, per un, io dico, una specie di miracolo anagrafico. Facciamo il primo intervallo o sentiamo un primo ascoltatore? Sentiamo un primo ascoltatore che è già collegato. Gabriele, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Buongiorno. In primo luogo, poiché so che probabilmente la sua modestia e la sua umiltà non ce lo diranno, vorrei che ci dicesse il titolo del libro che ha dedicato a Rocco per poterlo leggere. Non mi faccia fare Bruno Vespa, la prego, la so, prego, però, Gabriele. Però è un desiderio e quindi... Ne troverà tracce, ma la prego. La ringrazio. Seconda cosa è questa, ma probabilmente sono io che non ricordo il calcio di quei tempi. Vorrei sapere cosa avrebbe fatto Rocco con presidenti come quelli di oggi, come del Milan Berlusconi o Zamparini o il presidente del Livorno, o forse, ripeto, sono io che non conosco i presidenti che ha avuto Rocco, ecco, semplicemente questo. Grazie a lei, Gabriele. È difficile dirlo, tenga conto che Rocco aveva un'educazione asburgica ed era una persona che aveva molto rispetto per l'autorità, e anche per chi tirava fuori Sgay, come diceva lui, anche per chi cacciava, i quattrini. Quindi non saprei dire. È ovvio che se gli si fosse presentato, come si chiama quello nuovo che voleva comprare il Ciucariello, ecco, Rocco con Ciucariello, credo che ne avremmo vista e sentita qualcuna di carina, insomma. Però insomma, rispetto ai nomi che ha fatto lei, io credo che Rocco avrebbe trovato il modo di convivere e di piantare dei solidi paletti per il rispetto delle proprie competenze e della propria autonomia anche dialettica, anche di battuta, perché se vogliamo riscoprire in pieno il pianeta Rocco, beh, insomma, è stato uno dei più grandi battutisti, credo, della storia, ma non soltanto della storia sportiva calcistica, anzi ben oltre. Torniamo in onda con il secondo collegamento, stavolta con Padova, dove troviamo Gastone Zanon, capitano del primo Padova di Nereo Rocco. Capitano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Buongiorno. Dunque, come il... stai? Sto bene, sto molto bene. Se dico Paron, qual è la prima cosa che viene in mente al primo dei suoi capitani? Se mi fai dire una solita monada adesso. Prova, perché Monati son, questo era il modo suo. Staghetta ca, io provo a tradurre, staghetta ca era stagli attaccato, ed era la raccomandazione a te che marcavi generalmente le mezze punte, i fantasisti. Sì, no, adesso si chiamano mezze punte, una volta si chiamava attaccanti. Semplicemente attaccati. Attaccanti, sì. Staghetta ca, attaccato e incollato. Senti, sì. E la prima volta che arrivò alla Piani Schiaffino, ci fu una raccomandazione particolare o no? Beh, sempre il solito discorso di staghetta ca. Però lì, sai, con Schiaffino era un po', ti portava un po' in giro per il campo. Stiamo parlando il più grande giocatore che io abbia mai incontrato. Il più grande giocatore? Sì. Senti, a me viene in mente che insomma, sarebbe il caso, data la freschezza della tua voce e dato il fatto che sei stato il primo capitano del Padova di Rocco, e visto anche al posto di Rava Rocco, e io ero capitano della squadra di Padova. Ecco, ma visto anche che non sei una signora, tutto sommato, vorresti per cortesia declinare la tua età? Io sono nato il 12 novembre del 1924. Alla faccia. Io ho la stessa età del campo a Piani. Alla faccia del bicarbonato. Senti, arriviamo subito al campo a Piani, perché dovete sapere che Gastone Zanon, calciatore di lungo corso nel Padova e capitano storico del primo Padova di Rocco, poi gli subentrò Lello Scagnellato, che purtroppo, che purtroppo è scomparso, purtroppo l'estate scorsa. Dovete sapere che Gastone Zanon poi ha avuto una lunga seconda carriera come impresario edile, e a un certo punto era anche riuscito a presentare un progetto per ristrutturare la Piani. Beh, ti dirò, Gigi, che io, anche quando giocavo a calcio, ai tempi degli anni 50, avevo già un'impresa di costruzione, morto mio padre, io giocavo e facevo l'imprenditore. Perciò già quando giocavo avevo l'impresa. E lì avevamo fatto un'idea, un progetto di ristrutturare il campo a Piani, facendo una magnifica un'idea era di fare una tribuna in legno lamellare a due piani con un tipo stadio inglese, ecco. Siccome il campo a Piani ha un terreno che fosse uno dei migliori d'Italia, sì, e si pensava di ristrutturarlo in quella maniera lì, come hanno fatto a differente da noi, che abbiamo fatto Lugano fuori della città, capolavoro, a Trieste, no? A Trieste invece ha fatto il Nereo Rocco, che è in centro, mi pare. Certo, ecco. Certo. E questa era l'idea. Poi invece è subentrata tutta un'altra storia, è venuta fuori Calciopoli, è venuto fuori Leuganeo, e purtroppo la Piana è stata abbandonata. Ma tu hai detto Calciopoli come se fosse una cosa recente, no? È venuto fuori Tangentopoli. Ecco. Parliamo degli anni 90. Esatto. Tant'è vero che qualcuno poi... Sì, perché l'ultima partita, mi pare, da Piani l'ha fatta nel 93-94. sì. Era pronto il Luganio e sono passati dall'altra parte. Complimenti vivissimi. Io credo che la Piani, che era la fossa dei leoni di quel Padova, in qualunque altro paese del mondo sarebbe o l'attuale stadio del Padova o monumento nazionale. Nazionale, sì. Però è vero che tu recentemente, continuando a batterti, perché data l'età giovanile è normale, sì, che appunto, tu ti batti, ecco, è vero che sei riuscito a ottenere qualcosa? Sì. Da 9 anni che ho fatto una guerra con l'amministrazione comunale di allora e quelle che si sono succedute, perché si voleva abbattere il campo a Piani e addirittura pensavano di costruire, non so, metti un condominio, roba del genere, robe pazzesche. E insomma, un po' alla volta, finalmente adesso è arrivata questa amministrazione. Che è il vice sindaco, che è un appassionato, una brava persona, insomma un uomo di buon senso, e insomma il campo a Piani viene salvato. Verrà demolita la gradinata in cemento armato che poi ho costruito io negli anni 50, ho vinto una gara d'appalto con il comune, è stata fatta una sopraelevazione per aumentare la capienza dello stadio, no? Certo. E viene demolita, il campo a Piani viene riportato allo stato di progetto del 1924 e viene mantenuto così per il calcio giovanile, per i ragazzini, per i dilettanti. Beh, questo è un successo. È un grande successo, è un'impresa davvero meritoria. Sono veramente soddisfatto. Che torna a tuo onore e che torna a onore di un antico vero capitano del Padova. Senti, certamente. Raccontiamone una del Parone e una tua. Allora, io comincerei dalla tua perché magari no, non è molto la società, ma è meravigliosa. Tu hai letto Repubblica stamattina? Sì, su Repubblica. Hai letto qualcosa? C'è una citazione che mi ha un po' impressionato. T'ha impressionato. Allora, già, spiego. Mi ha portato i vecchi ricordi contro il vecchio Torino. Spiego, introduco, poi la racconti tu. Gastone Zanon, l'articolo di Gianni Mura, è una lunga e splendida rievocazione di Nereo Rocco e dei suoi fedelissimi. Tra i racconti di Gianni Mura c'è il modo in cui ogni tanto Gastone Zanon ama presentarsi. Gastone, ci sei ancora? Gastone, capitano? E il capitano si è giustamente spaventato, lo credo bene, era il minimo che poteva accadere. Povero capitano. Ma non siamo, insomma, in qualche maniera troviamo il modo di recuperarlo, anche perché c'erano, ripeto, un paio di aneddoti almeno che valeva la pena di raccontare. Uno lo ha ricordato stamane Gianni Mura su Repubblica ed è il modo in cui Gastone Zanon ama presentarsi alle persone che conosce, la sua stretta di mano. Ha alcune caratteristiche particolari. Per esempio, vediamo se lo ripeschiamo, perché volevo farlo raccontare a lui. No, al momento non ci stiamo riuscendo. Sì, ci siamo riusciti. Gastone? Eccomi qua. Capitano, ti sei preoccupato, ti sei paventato, ma queste notizie improvvise poi finiscono presto. Sta attento. Allora, abbiamo letto di questa cosa. Com'è che ti sei presentato quella volta tu a Gianni Mura? Eravamo a Trieste al 25esimo anniversario della morte di Rocco, sì. E eravamo lì, mi pare, in consiglio comunale e questo Gianni Mura, ho voluto conoscere, si è presentato, ha voluto sapere le solite robe dei nostri tempi, dei primi tempi di Paolo Rocco, eccetera, è saltata fuori questa storia di una mia gag, come si può dire, gag. Presa di con una mano, mi ha dato la mano, no? Sì. E allora io gli ho detto: guarda, che questa mano qui è quella che ha stretto le palle, dico le palle per non dire qualcos'altro, sì, del grande Gabetto quando abbiamo perso a Torino 3-1 e vincevamo 1-0 con la prossima della fine. Nei corner questo qui saltava e non riuscivo io a... Perché eri più piccolo tu, no? Allora per tenere un po' più basso, hai capito, gli parlevo in mano, stringevo e lì, allora strizzavi con la palla. Ma scommettiamo che non c'era ancora la prova TV, Gastone? No, non c'era la prova televisiva. No, mi immagino la felicità di Gabetto quando eri tu a marcarlo. Sì, appunto. Io con Gabetto ho ho fatto due partite, perché poi, dunque, la prima abbiamo perso a Torino 3-1, poi il famoso 20 febbraio del 49 qui a Padova, i quattro pari famoso, che ancora si ricorda tutti, ancora adesso se ne parla. E abbiamo fatto 4 pari, anche perché 4-4 col Grande. Poi sono morti il maggio del 49, sì, due mesi più tardi. Invece una volta viene a giocare alla Piani il Vicenza, è un derby, quindi Padova-Vicenza, tu devi marcare Campana, l'attuale presidente dell'AIC da tantissimi anni, Sergio Campana, l'avvocato che allora era un centravanti, il mio amico Sergio, il tuo amico Sergio, un bel centravanti elegante di manovra, veramente un ragazzo di classe, un signor giocatore, esatto, molto tecnico, ti portava un po' a spasso, poi fine un po' leggerino ma molto tecnico. Fine primo tempo cosa succede? Al primo tempo lì succede che in spogliatoio Rocco mi fa: guarda, tu stai su, ti sta su Campana, sta attento perché il tecnico gioca bene, però ha un po' che paura, ecco, questo è il detto di Rocco. Sì. E allora in una delle tante azioni durante la partita, al primo tempo gli fanno un allungo sulla sinistra, lui faceva un po' il centravanti pendolare, come un po' alla Indeguti, e io gli vado incontro, lui sta per calciare la palla, terra palla, sai, di shoot, io gli entro con la gamba tesa, ma senza far fallo, molto violentemente, dico, in definitiva, con il petto lo sbatto sulla bandierina, addirittura la bandierina si leva dall'angolo, e basta, l'arbitro non fischia fallo, niente, finisce la partita, andiamo fuori, Rocco mi prende sotto braccio, non si accorge che dietro di noi c'è la Campana, e mi fa: senti, ciò Gastone, te che avevo detto di fare che paura ostrega, ma non così tanto ciò. Questa è stata la battuta di Rocco, che ovviamente ha riacceso la dialettica. Capitano, grazie di questa straordinaria partecipazione. Ringrazio te e tanti auguri per domani. Un abbraccio al capitano del Padova di Rocco. L'intervallo, i messaggi sono un numero che so davvero, non riesco a starci dietro oggi, ma Federico da Alessandria scrive una cosa molto interessante che poi approfondiremo nella seconda parte. Il personaggio Rocco è stato grandioso, scrive Federico, ma non deve oscurare la sua grandezza tecnica. Due messaggi, li scelgo davvero a caso tra un numero che non ricordo. Il primo è: pazzesco, ho 25 anni e non ho mai sentito parlare di Rocco, ma questi brani di storia di calcio mi hanno dato la pelle d'oca. Il secondo è: mamma mia che tristezza, sempre a parlare dei tempi di Garibaldi. Sentiamo Giuseppe da Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini, grazie di questa oasi a cui mi avvento quotidianamente. No, volevo dire, io ho 43 anni, quindi non ho avuto la possibilità di conoscere a fondo l'opera di Rocco, sia come uomo che come tecnico. Sì. Però poco fa, mentre leggeva quella pagina di letteratura, perché non è cronaca, è letteratura. Pura letteratura, scriveva Brera, mi si è accappolata la pelle anche oltre, direi. E lì per lì ho pensato: ma perché mi arrivo a questo? Arrivo a questo perché ho colto in un attimo l'abisso che ci separa e dal signor Rocco e da Brera nelle loro rispettive categorie, pensando al mondo in cui ci tocca vivere. Sì, e questo mi ha veramente confortato. Lo credo, Giuseppe, la capisco bene. Tenga però conto, per non farci troppo male, che stiamo parlando di due pezzi unici nei rispettivi campi. È vero, io lo stampo. Stiamo parlando di due monumenti assoluti, e cioè Brera è stato, a parer mio, il più grande giornalista sportivo del secolo scorso, e compreso questo pezzetto di secolo, millennio nuovo che stiamo vivendo, e Rocco, insomma, la statura del personaggio nella sua complessità credo non sia ancora stata attinta, ma io sono un po' parziale in questo, e quindi può darsi che non riesca a essere obiettivo. Tra poco ci colleghiamo con un altro ospite a cui invece chiederò un po' di inquadrare proprio la dimensione e la proiezione del Parò. Sentiamo ancora un altro amico che si è collegato, che è Mauro da Alessandria. Buongiorno. buongiorno a voi. Dica. Volevo chiederle fare due domande, Granzini. Sì. Sempre inerenti comunque a Rocco. Sì. La prima, non ho seguito la prima parte della trasmissione, magari l'avete anche detto. La Coppa dei Campioni del 1963, sì. C'era sempre lui come allenatore del Milan? Certo. Bene, grazie. E poi la seconda, invece, dato che sono interista, però ho sempre apprezzato Rocco, i suoi rapporti con Emilio Herrera com'erano? Grazie mille, arrivederci. Grazie a lei, Mauro. Erano di finta baruffa permanente, nel senso che allora, diciamo che gli Ancelotti e il Mourinho di allora non se le mandavano a dire in maniera... indirettamente, ovviamente, insomma, era l'epoca un po' delle polemiche tra, non dico le prime donne, beh, Herrera un po' della prima donna se la tirava, Rocco certamente no, ma insomma era l'epoca delle polemiche anche costruite, quella era l'epoca dei grandi duelli Callas-Tebaldi, prima era stata quella di Bartali e di Coppi, in cui le reciproche antipatie o le rivalità certamente c'erano, ma la stampa ci metteva molto, ma molto del suo a gonfiarle. Ma quando poi Herrera aveva qualche disavventura o la stessa cosa accadeva a Rocco, erano i primi tra di loro a telefonarsi o a scriversi augurandosi reciprocamente le cose migliori, e cioè molto di tutto questo era in parte artefatto. Ecco, anche di questo potrei chiedere conferma a un docente di storia del giornalismo e di storia della televisione, come il nostro dico ormai amico professor Giorgio Simonelli. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a tutti. C'era a questo punto ti giro la domanda di questo ascoltatore. Sì. Sì, c'era ovviamente con alcune differenze, così soddisfiamo anche la curiosità un po' polemica di quello ascoltatore che diceva che stiamo parlando sempre di Garibaldi, no? Ecco, ci sono delle differenze rispetto ad oggi, e c'è anche una continuità ora che i mezzi di comunicazione, insomma, costruiscano un po' le rivalità, insomma, è evidente. C'è la differenza fondamentale che oggi tutte queste cose avvengono in diretta e si cerca di costruire nell'immediato dopo partita, no? Come vediamo tutte le domeniche, o comunque attraverso, quindi, delle forme visivamente molto clamorose, mentre all'epoca chi organizzava e chi pescava in queste cose era soprattutto la stampa, e quindi con una mediazione molto più forte e con una letterarietà anche, perché anche questa rivalità di cui si parlava Rocco Herrera è una rivalità costruita abbastanza letterariamente da questi giornalisti, soprattutto da uno di questi giornalisti, insomma, anche di cui abbiamo già parlato. E questa differenza è una differenza molto forte, una differenza che toglie immediatezza, nel senso che quelle polemiche, se erano costruite insomma, in una maniera, ripeto, molto letteraria, e quindi, come dire, un po' più raffinata, però forse è meno esplosiva, ecco. Professore, tu che insomma, anche soprattutto forse da milanista in questo caso, ma da persona, sì, oggi vorrei essere più che professore milanista. Ecco, vabbè, allora se vi accettate così. Farò il professore, da milanista, come ricordo, cioè che cosa ti è rimasto dopo 30 anni? Perché 30 anni, dicevo all'inizio, con il figlio, con Tito, è un numero spropositato di anni, ed è incredibile che questo ricordo, se appena lo tocchi, lo solleciti, gli dai una lucidata, torni fuori così, no? Guarda, la cosa che in questo momento mi ricordo di più, perché proprio è legata a questi giorni di 30 anni fa, come Rocco se n'è andato, ecco, se n'è andato e il Milan stava cercando di vincere il campionato della Stella, cosa certo. Che non era, Rocco non era riuscita, insomma, era proprio un po' il suo magone, no? E però anche quell'anno lì sembrava che le cose non andassero bene, perché in primavera il Milan aveva cominciato a declinare un po', la muta degli inseguitori era forte, c'era la Juventus, c'era il Torino, insomma, che inseguiva, no? E sembrava che ancora una volta dovesse. Poi 10 giorni dopo la morte di Rocco ci fu un derby incredibile. Allora, l'Inter sbagliò un rigore, poi andò sul 2-0, E poi incredibilmente negli ultimi 10 minuti il Milan fece un 2-2 con due gol di De Vecchi. Ah, due gol di De Vecchi, non dico gli unici due gol in Serie A, però, però. Di cui uno casuale e uno bellissimo, sì, con un tiro da lontano. E allora pareggiare quella partita era importante per mantenere le distanze di avversari. E ricordo una cosa, che un commento di Beppe Viola, che non era uomo molto incline alla retorica, no? Ma che aveva capito, insomma, e disse, insomma, quest'oggi a San Siro Rocco non c'era più, ma dall'altro, insomma, ha tenuto una mano in testa a chi voleva, insomma, che alla fine se la cavava. Sì, non è, non... Ecco, un uomo, ripeto, che insomma non indulgeva mai alla retorica. No, no, infatti non è da Beppe Viola, però... Subito, insomma, ci si è resi conto che era scomparso qualcuno che non sarebbe mai scomparso. Questo è vero. Tale era la suggestione di quei giorni, sì, e tale era lo spessore del personaggio. Quindi, insomma, la leggenda di Rocco era cominciata anche grazie alla costruzione giornalistica, anche perché insomma Fondo Brera aveva il pezzo che tu hai letto prima di Brera ci dice già quanto fosse, per dire, già pronto il personaggio da tramandare, sì. E poi è rimasto, tant'è vero che insomma se quella classifica che fu fatta tra i tifosi del Milan qualche anno fa, per dire chi era... 9 anni fa, l'allenatore del secolo, è vero. Sì, quello da milanista, insomma, posso dire forse delle cose anche... Sì, perché votaste voi milanisti, quel referendum, è vero. Allora, tutti ricorderanno, insomma, che la scelta del giocatore fu Baresi e non Rivera, lasciò qualche strascico polemico anche, insomma, sulle... diciamo, di tipo politico, ecco. La vittoria di Rocco su Sacchi e su Capello, insomma, invece la dice lunga, perché dice che insomma, certo, nel cuore, insomma, dei tifosi milanisti, almeno di quelli che hanno qualche anno, insomma, Rocco è rimasto. Eppure ci sono anche coloro che hanno vinto di più. Io devo dire che tecnicamente credo che Sacchi abbia fatto cose straordinarie. Dopo parliamo magari dell'aspetto tecnico e dell'aspetto tattico, per fare un parallelo concreto. Io prima di lasciare la linea alla viabilità, che è questione di secondi ormai, vorrei ricordare soltanto e così è un argomento che rilancio dopo per te, la qualità, lo spessore delle sue battute, quella immortale, quella che davvero ha fatto epoca, fu quando a Padova un inviato della stampa di Torino alla vigilia di un Padova-Juve, Rocco aveva fama di burbero e quindi di uno che non parlava volentieri, allora ottenne da Rocco una lunga intervista e per ringraziarlo alla fine, alla vigilia, ripeto, di questo Padova-Juve, gli disse: signor Rocco, e per domani vinca il migliore. Rocco lo fulminò al volo, ma proprio in una frazione di secondo. Ciò speremo di no, gli rispose, perché se vinceva il migliore avrebbe vinto certamente la Juventus. Beh, oggi la rubrica Sembra Ieri è pronta, Nicola Filippone l'ha regolarmente confezionata, ma insomma mi sembrerebbe un po' troppo, semmai servirebbe una pillola di fantascienza, di proiezione del futuro, non certamente di ieri. Professor Simonelli, anzi tifoso del Milan, perché così ti sei raccomandato. Dunque, Rocco è passato alla storia come un grande storico difensivista e in parte lo è stato, nel senso, in buona parte lo è stato, nel senso che per lui le squadre come le case si costruivano dalle fondamenta, ma sia nel Padova che nel Torino, e non ti dico nel tuo Milan, le due volte principali, insomma, che lo guidò alla vittoria, non c'era mai meno di 3 attaccanti e almeno una mezzala di fantasia e di creatività, come Rivera, come Umberto Rosa nel Padova, come Moschino nel Torino, o sbaglio? Sì, ma infatti questa è un po', come dire, è un po' la storia, sempre si dice, insomma, i grandi difensivisti, quelli che la storia ci ha consegnato come grandi difensivisti, in realtà poi se noi andiamo a guardare le formazioni, insomma, vediamo che giocavano con fior di attaccanti. C'è una teoria, adesso io non voglio mettermi sul piano tecnico-tattico, dove sono, ho competenze limitate, diciamo, no? Però insomma, qualcuno dice che il vero grande difensivista era Sacchi, il quale aveva tutta un'organizzazione di gioco, come il fuorigioco, che era un'organizzazione di difesa, quindi quindi su questo si potrebbe discutere. Chi dice questo? Ho visto ancora uno di questi giorni, insomma, una partita, perché c'è una rete che trasmette vecchie partite che ci deliziano alcuni pomeriggi, sì, no? In cui di vacanza. Ho visto il Milan Ajax di finale di Coppa dei Campioni, quella del 4-1, insomma, dire che quella era una squadra difensivista con Amrin, Lodetti, Rivera, Sormani e Prati è delirante proprio. No, invece posso aggiungere una cosa riguardo quello che si diceva prima della battuta, certo, che è straordinaria, ciò speremo di no. Rocco aveva questa grande capacità che oggi di cui oggi si va alla ricerca, forse natamente, di sdrammatizzare, che è un verbo che io odio, perché insomma il calcio è un dramma, non c'è poco da fare. Uno è un appassionato, sa benissimo che il calcio, io credo, insomma, nella vita qualche volta ho pianto, insomma, no? Quindi è inutile sdrammatizzare una cosa che per definizione è un dramma, cioè azione. Ecco, però lui aveva questa capacità di risolvere alcune situazioni con una battuta. Io ricordo una serie lui era già commentatore alla Domenica Sportiva, sì, e si discuteva della famosa anche allora sudditanza psicologica, e c'era un rappresentante degli arbitri, non ricordo chi fosse, un giovane tutto azzimato, che disse che la sudditanza psicologica non esisteva. Andò su tutte le furie e gli disse, non usò i termini che usava quando non era in quadro, quando non era davanti alle telecamere, ma insomma il tono era quello. E disse: guardi che i giovani arbitri cosa sognano? Sognano di arbitrare all'Olimpico, di arbitrare al Comunale, di arbitrare a San Siro, via retta, non è che guadagna tanta polenta arrivare qui. Certo. Lui diceva, una volta disse a me, a questo proposito, vi ricordo questa risposta: mi go allenare al Padova e go allenare al Milan, una qualche differenza la Ghesè, diceva. Era bastata quella battuta lì, intanto in tono molto, molto paterno, ecco, il ragazzotto che per montare tutte le sue teorie. Certo, azzimato, hai detto bene. Sono ancora adesso azzimati quelli che sostengono, qualcuno, no? Quelli che vanno, azzima. Certo, quelli che negano l'evidenza e la realtà. Senti, sentiamo insieme un frammento di quelli che Flavio Soardi ha ripescato, in cui non solo Rocco, ma persino Brera, ascoltiamo, discettare, e non litigare certamente, ma discutere tra loro due sul conto proprio di Rivera. Io penso che Rivera sia un grandissimo stilista, molto intelligente, come tale in grado sempre di intuire quale sia la situazione migliore per sé. Ha la voglia di correre, lui non sa correre, non è un podista, no, sennò sarebbe un grandissimo interno. Lui invece è per me un mezzo grande giocatore. Sì, non corre tanto, ma se io voglio avere il gioco, se io voglio avere la fantasia, se io voglio avere dal primo al novantesimo minuto l'arte di sempre di capovolgere una situazione, questa me la dà soltanto Rivera con i suoi lampi. Ecco, io non voglio esagerare perché so che è soltanto football, è un genio come giocatore. Senti solo, professore, in questo brevissimo frammento lui dice due cose, a parte il fatto che era un riveriano totale, quindi per me ha ragione lui al 110%, ma senti quell'inciso che lui fa: non vorrei esagerare perché è soltanto football. Che poi sono state coniate quelle espressioni come poeta del gol, no? Che si usano queste metafore, sì, artistiche ormai per ogni campioncino, e lui chiede scusa per definire Rivera poeta del gol. Non vorrei esagerare, era un uomo che aveva il senso della misura, anche quando così voleva dire, era un uomo che aveva il senso della misura e il senso dell'iperbole, che sono due cose e riuscire a miscelarle come era capace lui non è semplice. Mi ha detto Massimo Giacomini, a proposito di valutazioni tecniche o tattiche su Rocco, ripeto, è passato alla storia come il grande difensivista, lui voleva solo i giocatori di peso, i manzi e finché ce n'è. Giacomini mi ha detto: andate a rivedervi le sue formazioni, ne abbiamo parlato prima. Pensate a Rivera, che non è mai stato escluso dal Milan, come Meroni non era mai stato escluso dal suo Torino, come Amrin non era mai stato escluso né dal Milan dopo né dal Padova. Nella Padova prima, perché Rocco lo ebbe e lo volle in queste due squadre, ma ha aggiunto Giacomini che non si sarebbe mai sognato uno come Rocco di lasciare fuori squadra Baggio, e tantomeno con lui Zola sarebbe dovuto andare in Inghilterra. Io lo trovo splendido, se parliamo di proiezione nel presente, no? Sì, credo proprio che questo è una delle sue grandezze, insomma, quella di avere allo stesso tempo usato, ecco, come si dice anche in questo libro di un certo Gigi Garanzini, insomma, di aver sempre costruito le case dalle fondamenta, cioè cominciare dalla difesa, però poi di avere sempre valorizzato anche quelli che oggi si dice non possono giocare in una squadra molto organizzata. Questo. Tanto più che poi c'è questa storia che bisognerà una volta dire, perché è vero che Rocco è annoverato tra i difensivisti, ma il suo punto di riferimento, Rivera, è sempre stato annoverato anche da un punto di vista dialettico tra gli offensivisti, quindi questa, insomma, questa contraddizione bisognerà prima o poi risolverla, perché se è vero che Rocco era un difensivista, come si concilia con l'idea che appoggiava sempre Rivera, che invece voleva un calcio di tipo diverso? Ecco. Quindi sembra che ci sia una contraddizione storica. Era professore Rivera, hai detto, e allora affiderei a lui, a un frammento d'epoca di Gianni Rivera, il racconto di un aneddoto tra i più divertenti che si ricorderanno. Poi alla fine lo chioserò io per spiegare in che contesto andava inquadrato. Sentiamo Rivera. Mi è venuto in mente la finale che dovevamo fare contro l'Amburgo a Rotterdam di Coppa delle Coppe, e il martedì pomeriggio siamo andati a fare una passeggiata per Rotterdam, e c'era la pubblicità della partita e c'erano i foglietti che distribuivano per parlare della partita alle formazioni, il classico foglietto in cui c'era da una parte la formazione del Milan e dall'altra la formazione dell'Amburgo. E siamo arrivati, tornati in albergo, abbiamo cenato, poi prima di andare a letto Rocco gli piaceva scherzare, buttava, dice, e allora ha detto, beh, prima di andare a dormire femo la formazione con le marcature. Ha preso questo foglietto, l'ha messo sul tavolo e ha cominciato a fare le marcature. Dice, allora Tite va su questo, per lui parlava sempre il dialetto triestino, Tite va su questo, Tite va sull'altro, l'altro marcherà questo. Alla fine, è arrivato a un certo punto, fa, e questo chi lo marca? Come questo chi lo marca? Ce n'era uno in più. E allora ha ricominciato da capo, dice, allora ti va su questo, ti te va su quell'altro, ti te va su quell'altro. Ma ce n'è uno in più. Alla fine qualcuno gli ha detto, non mi ricordo più se era Codicini o qualcun altro, gli ha detto, ma signor Rocco, quella parola lì è la parola arbitro in olandese. In realtà Rocco sapeva benissimo contare fino a 11, ma aveva visto, questo mi ha poi raccontato il dottor Monti, storico, medico sociale del Milan, aveva visto la truppa un po' depressa, e quindi ci voleva una gag delle sue, no? Per tirare un po' sul morale a tutti. Professor Simonelli, il tempo è passato, è scaduto, lo so che andremo avanti 3 giorni a parlare del Paron, e pazienza se è dei tempi di Garibaldi, però mi fanno segno alla regia che dobbiamo salutarci. E allora ci salutiamo. Vinca, buona giornata a te, vinca il migliore, ciò speriamo di no. Grazie a tutti per aver seguito questo appuntamento particolare di oggi. Grazie a Fabio Cantadoni in regia, a Flavio Suardi in redazione. Buon pomeriggio al Giornale Radio.